Ehi, là fuori. Sono le 7 del mattino. Oggi è venerdì. Venerdì 4 gennaio 2008. Negli studi di Rock FM, in rigorosa diretta, ci sono l'Ariele. Ciao! Ciao! C'è Spadino. C'è Mister Trombetta. Tutti e tre abbiamo a disposizione uno spalaneve che ci permette di uscire di casa e arrivare fino qui in via Locatelli 1, 20124 Milano. Non so come sia la situazione nelle altre città, ma Milano è tutta bianca. Sì, c'è la neve, ed è già diventata pioggia, a dir la verità. Però era carino iniziare questa puntata, la numero 154, sottolineando così. E se siete ancora all'interno dei vostri abitacoli, intesi come case, non come autovetture, potreste aprire la finestra e vedere un'altra città. Una città tutta bianca. Che fa sempre il suo porco effetto Milano sotto la neve, Le altre città come stanno? Precise? Pane, burro e rock and roll. No, sullo spalaneve scherzavo, La tua colazione rock. Non facciamo i soliti allarmisti. Pane, burro e rock and roll. Se no poi vi sveglio con la carogna e va tutto a carte 48. E si dice carte 48. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. Eccola qua. Non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Sveglia puntuale alle 5:30 del mattino per arrivare fresco come una rosa qui a Rock FM a condurre. Non era per farvela pesare, ragazzi, No. Non scherziamo, sono contento di averla sveglia presto, perché pane, burro e rock and roll mi regala, mi sta regalando e spero mi regalerà ancora grosse soddisfazioni. Una buona giornata dai microfoni di Rock FM, allora andiamo ad affrontare questo venerdì, ultimo giorno della settimana, di questa prima settimana del 2008. Ricordiamo l'anno della svolta, settimana corta che abbiamo preso un po' così in maniera particolare e che chiudiamo in maniera decisamente particolare, visto che c'è la neve, così sono. Noi ci facciamo molto rapire dal mood esterno. Siamo delle spugne qui a Pane, Burro e Rock and Roll, no? Già la trasmissione fondamentalmente la gestite voi là fuori. Quando poi dalle finestre di Rock FM si intravede così una città un po' diversa, ci facciamo un po' prendere. Lampione crepuscolare lì, pronto a sorvegliare la puntata 154, almeno per un'oretta buona. Per la seconda non si sa, ultimamente si spegne verso l'ora e mezza, roba così. Ovviamente io e Spadino abbiamo fatto una breve riunione di redazione per iniziare la puntata di oggi. Abbiamo detto abbiamo bisogno di qualcosa di arioso, così per sottolineare il mood meteorologico della Milano che ci ospita stamane. Spero, non so se c'è la neve anche nelle altre città, so per certo che in ogni caso il brano che abbiamo scelto dovrebbe aiutare al risveglio anche di tutte le altre città. La parola d'ordine è stata, Spadino, abbiamo bisogno di qualcosa di arioso, così per far respirare la Milano tutta bianca. Che regalo anche a voi di Firenze, anche a voi di Genova, di Pisa, di Lugo di Romagna e tutte le città che ascoltano Rock FM. Chiudete gli occhi e immaginatevi la grigia Milano tutta bianca. Senti qua che roba, eh? Buona giornata, amici. Floyd, un frammento da Dark Side of the Moon, così per darvi il risveglio stamane. Allora, tutto pronto per la puntata 100. Che inizio. Posso, visto che non è ancora arrivato Freak, lasciarmi andare? Sennò poi Freak, quando sente ste cose, non finisce più. Stavo pensando su questa grande metafora della neve nella città, che è un po' come la vita, no? Nel senso che cade la neve e per un po' vedi questa città meravigliosa, bianca, candida, però basta che poi smette di nevicare, arriva la pioggia e diventa un paciugo. Ecco, mi sembra un po' la metafora della vita, no? Così, Ariele è filosofo stamattina, ogni tanto può capitare. Vi ricordo le coordinate, qui la prima mezz'ora è la mia preferita di Pane, Burro, Rock and Roll, perché è bella precisa, appuntamenti fissi, intro, contatti, almanacco. Almanacco se arriva Freak, ma dovrebbe arrivare, il contatto telefonico c'è stato. Vi ricordo le coordinate, allora il numero di SMS 335-100-7777. Non so se voi della prima mezz'ora lo sapete cos'è il provino per diventare musicisti rock con la bocca, perché non lo facciamo mai a quest'ora, però solitamente nell'ultima mezz'ora. Però potete partecipare anche voi se volete. Basta inviare un SMS e dire voglio diventare musicista rock con la bocca e prima o poi la redazione vi richiama e vi facciamo il provino. E poi è semplice, basta fare tutti, oppure quelle robe lì. Lo dice l'Ariele, che ha passato il pomeriggio di ieri a suonare metà del repertorio degli AC/DC con la bocca. Tutto, cassa, rullo, Charlie, piatti, basso, chitarra, mi manca solo la voce. Questo per rispondere anche all'amico che ci segnala neve a Imola con, zero neve ma freddo porco, ok, scusate, che mi sentiva con la lingua un po' felpata, tutto ok? No, va benissimo, sto bello preciso oggi. Sono pronto, bello carico per la puntata di oggi. No, problemi. Mentre mi segnalano zona entroterra, ligure, neve, sembra. Ok. Ci manca la Toscana. A meno che abbiamo perso il ponte, che può essere. Bisognerebbe scoprire com'è messa lì. Sì. Puntate meteorologiche quelle di sto giro qua, non so come mai. Proseguiamo col buon rock and roll, che è gran meglio. I Queen, rock and roll style. Queen, Crazy Little Thing. Che cazzo ho detto Queen? Crazy little thing. settimana corta, la prima di questo nuovo scintillante 2008, l'anno della svolta, ma per fortuna è venerdì e per fortuna gli Eurostar ci regalano anche quest'oggi da Bologna Roberto Frecantoni. Una bellissima, straordinaria premessa che mi gasa tantissimo. Sono gasatissimo. Il primo venerdì dell'anno, buon venerdì 4 gennaio. È bello sentirla così gasata. Buon 2008 a tutti. Iniziamo con l'almanacco del giorno che fu, l'ho scelto io. Le va? Da contratto, sì, cioè, sì, una prima bene. Mezz'ora lo facciamo. Va bene. Lontano 1493. Era il 4 di gennaio quando un certo Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo ponendo fine al suo primo viaggio. Dice: tornerò a trovarvi, e parte. E saluta gli amici indigeni che lui chiama indiani, avendo sbagliato un po' i conti. Sì. Però io obietto qualcosa, nel senso che avrei da criticare questa scelta. Sulla partenza non sarei mai partito il 4 di gennaio. Perché? Perché credo che fosse un bel freddo sulle coste. Ci sta. Sulle coste, a meno che non sia partito da molto a sud, chi lo sa, chiediamoglielo. Perdiamo altro tempo o passiamo alla notizia successiva? No, passiamo alla prossima perché riguarda il giudice Colt. Yes, era il 1848 quando Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti. Quindi il signor Colt che ha inventato anche la Colt. Esatto. Non la Golf, ma la Colt. La Colt, benissimo. Sì. Noi fingiamo di non aver sentito la battuta, ma comunque era l'anno prima, era il 1847. E perché lei dice, detto 48, mi sono sbagliato, mi scusi, perché la chiama il giudice Colt? Perché è una battuta che fa spesso Tex Willer, o comunque, insomma, è una battuta da western. Sì, e lei no? È un uomo da western. Esatto. Sì. Si vede. Un uomo d'azione. Affidiamo questa faccenda al giudice Colt. Attenzione, perché era il 1954. Un anno perfetto, straordinario. Quando un giovane camionista, pagando $4, registra due canzoni nella città di Memphis. Tennessee. Il suo nome era Elvis Presley. Nell'occasione incontrerà Sam Phillips, proprietario della Sun Records, che diventerà la sua casa discografica per un po' di anni. Hai capito? Il giovane, ancora acerbo ma già bravissimo, dotatissimo, quando si dice talento naturale, bella voce, come noi, bella presenza, capacità poi di stare sul palco come pochi. Bisogna saperci convivere con questi talenti. Esatto, bisogna saperli accettare con modestia, con umiltà. $4 pagati da lui è iniziato la storia del rock and roll. Infatti, con un regalo alla mamma. Infatti, lui registrò la canzone in questi baracchini, se così possiamo definirli, questi piccoli studi della Sun Records, con registrazione e realizzazione quasi istantanea del disco, per la mamma, per il compleanno della mamma. Non sia timidino, anche lei ha fatto una cosa di questo tipo quando ha registrato Sono un ribelle mamma, vero? Ha pagato anche lei per registrarla. Sì, tanto di più, ma ne valeva la pena perché così ho imitato il grande Elvis Presley. Chiudiamo via 1968, quella testa calda di Jimi Hendrix in tournée in Scandinavia, danneggia la sua camera d'albergo e viene arrestato a Stoccolma. Sì, questa fa parte delle notizie del periodo ultimo della vita di Jimi Hendrix, laddove si narra per voce di Noel Redding, il bassista degli Experience, di Jimi Hendrix, che insieme al grande batterista Mitch Mitchell erano la band di Jimi Hendrix. Ebbene, Noel Redding racconta che in quel periodo lui assistette a questo concerto, probabilmente era proprio di questo che si parlava, di questo concerto in Scandinavia, e restò traumatizzato, scandalizzato, perché mai era salito sul palco con un Jimmy così strafatto. Era un periodo di grossa crisi per Jimi Hendrix. E si spaccano gli alberghi, vabbè, via. È una rock star. Può farlo. È il minimo. E me, che c'è? cosa che così di prima mattina poi fa sempre un po' la sua porca figura. Gli Arta, lo segue, siamo tornati, certo che siamo tornati. Qualcuno ancora se ne stupisce via SMS, è già tre, è il terzo giorno che siamo tornati, dal 2 che siamo belli precisi qui ai microfoni di Rock FM. Allora, l'interazione è partita, Frick è arrivato e già si è tuffato sulla colazione, quella vera che c'è qui negli studi di Rock FM. L'interazione era un po' particolare, ve l'avevamo spiegato in questa ripresa del 2008, l'anno della svolta. Volevamo così prenderci un attimo di pausa, ragionarci su, vedere se ci venivano nuove idee, ma vedo con molto piacere che i nostri inviati storici scalpitano, proprio non ce la fanno più. Vogliono assolutamente riprendere il duro lavoro di inviato di pane, burro e rock and roll. Io li saluto ovviamente tutti quanti, state tranquilli. Dai, iniziamo settimana. No, magari iniziamo anche oggi, non lo so. Oggi io avrei da tenere sott'occhio Marina. Non so se avete sentito ieri, Marina Genova, una nostra radioascoltatrice che ieri mattina alle 6 del mattino, appunto, dopo una bella doccia, ha deciso smetto di fumare. E dovremmo controllare se gli ha fa o gna fa. Questo è il compitino di oggi. Poi per le altre cose vediamo, anche perché, cari inviati, volevo in questi primi tre giorni dare la possibilità anche ai timidini, che non hanno mai avuto il coraggio di esporsi in prima persona qui a Pane, Burro, Rock and Roll, di farlo, insomma, di non temere, di scrivere al nostro numero di SMS 335-100-7777 dicendo: oh ragazzi, io ci sono, voglio studiare questo. Voi direte: ma riguardo a che cosa? A rock. Che domanda. Pane, burro, rock and roll ha una sola domanda: ma quello è rock o non è rock? E voi dovete dare la risposta. Tra l'altro vi svelo anche un trucchetto: solitamente la risposta è sì, è rock, a parte qualche rarissimo caso. Abbiamo questo vizietto di tramutare tutto in rock, perché per noi tutto è rock. Siamo veramente filosofici stamane. Volevo leggere un po' di SMS, ovviamente mi sono dilungato a dire cagate io. L'ultima segnalazione, visto che ieri, a proposito di inviati speciali, già avevamo sentito Carlo che ci segnala i numeri del lotto, niente, non è uscito niente. Non è uscito niente, ma Carla ha vinto ancora. Hai capito, Carla? Carla, ti curiamo, Shyness is nice and shyness is better. I'm doing all the things in God you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb. The bond that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So because if it's not love, then it's the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond that will bring us together. If it's not love, then it's the bond.